Wall Street. I viaggi del lupo. Di solito sono io quella che litiga con i microfoni. Vabbè, lo stavo un attimo sistemando, dai. Eccoci, bentrovati a un'altra puntata. Alla 31esima puntata. Settimana di Wolf Tritz. Era la trentesima, di quando abbiamo iniziato, però non dell'anno. E non ci hai detto nulla, dovevamo festeggiare. Non me ne ero accorto. Allora dobbiamo subito rimediare qua. Va bene, festeggiamo la 31esima, dai, va bene. Non vedo nulla, pasticcini, cose varie, proprio... Vabbè, è un festeggiamento così... Virtuale. Oggi è 23 febbraio, è venerdì. E in questo giorno non è successo nulla, stavi dicendo. No, mi stavo guardando, sai, tipo l'almanacco, a vedere un po' cosa è successo il 23 febbraio storicamente, ma... Nulla. Semplicemente si chiudono i giochi invernali a Sochi l'anno scorso, che poi si sono riaperti adesso in Corea del Sud. Ah, sì. Quelli che si stanno tenendo adesso. Oggi è il 15° giorno, quindi... È il 15° giorno e poi altre cose carine. Vabbè, è successo nel 98 che praticamente la Netscape ha fondato ha creato un gruppo per creare il browser Mozilla. Mozilla. Che è diventato Firefox. Sì, sì. Ma quello è una cosa che dovrebbero conoscere più o meno tutti. Vero, vero. Invece... La prima cosa che si scaricava in un computer era Mozilla. Invece diciamo altre robe, nulla di interessante, quindi io direi che colmiamo noi il vuoto della giornata con una bella puntata, dai. Ci siamo. Che musica ci fai ascoltare? Come al solito, un po' di tutto. Oggi partiamo con un po' di musica jazz. Soft? Sì, soft, jazz, soul, qualcosa del genere. Poi oggi abbiamo un'infinità di persone a trovarci. Cioè... per adesso abbiamo qua solo i rappresentanti. E poi arriveranno anche gli altri, però per adesso non abbiamo visuale. In che senso? Che non vediamo nessuno all'orizzonte. No, vabbè, siamo già i quattro qua. Sì, degli altri che devono arrivare. Va bene, dai, iniziamo subito con un po' di musica, così, ma anche se è abbastanza tranquilla, non è che ci scaldiamo molto, ancora dobbiamo risvegliarci, dai. Il brano è di Sampa. Andrei anche a dormire. No, dai, forse col brano dopo magari ti potrebbe conciliare il sonno. Il brano è di Sampa, ecco. Con Close But Not Quite. Everything is recorded. Fate lets you fall into her arms without a word, and only the size of your breath hurts. I'm not one to go. You made me believe in something more than her. I feel like I don't have the words, don't have the words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't, because I can't speak. They come close but not quite. Oh, these words that I try to recite, they come close but not quite. They come close but not quite. All these words that I try to recite, they come close but not quite. I'm so misunderstood, I'm so misunderstood. I'm so misunderstood. misunderstood. I'm so misunderstood. Yeah, I guess your eyes said enough. I guess your sighs said enough. But all of these words, they can't express pain. They can't express pain. They can't express pain. 'Cause they're just words. No, they don't express this pain. Salutiamo intanto Katia che ci sta ascoltando e ciao Katia. Il suo commento è stato musica soft. No, vabbè, stai tranquilla. Infatti io anche ho risposto via messaggio, ho detto con calma che ce ne abbiamo di musica per stasera. Katia, già mi sto addormentando, quindi deve mettere qualcosa di strong, perché sennò siamo finiti. Devo dirti la verità, a me questo artista qua piace, che è un artista anche nuovo e fa questo genere di musica, Sampa si chiama. E è venuto anche a Milano. No, perché? Non è Samba, è Sampa. È Tony che fa. Intanto lo salutiamo, il nostro socio in Wolf Trips. Ciao Tony. Deve fare i battutoni. Salutiamo. Cioè, vabbè. Io non ho parole. Salutiamo anche la Debora. Salutiamo la Debora. E invece salutiamo Sara e Emanuele, che sono venuti in rappresentanza del blog Bioma Terra, che adesso ci racconteranno. Ciao. Avvicinatevi un po' di più alla. Aspetta al che ok. Bene. Da un po' che non ci vediamo, dai. Sì, sì. Vabbè, avete avuto. Sì, sì. Vabbè, giustamente. E anche perché studiate. Vabbè, ve li dovete fare questi esami. Vero. Meglio pensare prima alla scuola e poi tutto il resto. Che va se bene, no. Va bene. Tra l'altro, ho visto che hai fatto dei bellissimi biglietti da visita. Sì, dai, sono belli, insomma. A me piacciono. Poi dopo chiediamo anche agli altri cosa ne pensano, dai. Perché voi state portando sempre avanti il vostro progetto del blog che parla di natura, esatto. Giusto? Anche se ho visto ultimamente che mettete un po' di più roba anche a livello di disegni. Sì, ho ripreso a disegnare e ho voluto, insomma, mostrare questa parte artistica. Vabbè. Comunque alla fine c'entra sempre, perché sono disegni naturalistici. Naturalistici, infatti. Il tema del blog è quello. Poi devo dire che è molto brava Sara a disegnare. Cioè, fa dei bei disegni. Che sono devo dire in vendita, tra l'altro. Eh? Sono anche in vendita. Ah, sì. Qualcuno li vuole. Vabbè, sempre sul blog, giusto? Sì, esatto. Va bene, allora facciamo così, ricordiamo l'indirizzo e poi dopo lanciamo il prossimo pezzo e poi andiamo a parlare dopo nel corso della puntata un po' di quello che delle novità del blog. Ok, quindi se volete andare a vedere il nostro blog www.biomaterra.wordpress.com. Però avete anche social, siete anche molto social voi come blog. Sì. Su Instagram sempre Biomaterra, Facebook Biomaterra. Sempre uguale. Twitter? Pure no. Twitter no. Abbiamo piace. I nostri personali. Ah, okay. Ma è meglio Instagram, sai? Instagram va molto per le foto. Vedo che anche i disegni sono apprezzati. Meglio Instagram che Twitter. Va bene. Noi comunque con Wolf Trips abbiamo tutto, ma in realtà poi alla fine della fiera utilizziamo più che altro Facebook. Dai. Tutto sommato Facebook va bene. Vabbè, ma è social più in foga, diciamo. Cioè. Sì. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che l'artista si chiama Second Hand Audio. che è tipo seconda mano. Succede intanto qualcosa, è successo qua, vabbè. Sì, perché ho detto una castroneria epocale. Vabbè, vabbè, facciamo finta di niente. Andiamo a ascoltare quindi il prossimo brano di Second Hand Audio con Brand New Slink Remix. Iniziamo a incrementare un po' il beat. Believe it, I ain't even have to come deep. The track is from the ghetto, so it's funky. Competition better worry, cause I'm hungry. Once again, it's Big Sight, world's famous chapter 8, aka your girl's favorite rapper. Spray the AK at your crew like brat brat. If you try to Shazam my beats, I'm like, this shit is fire like that. All that shit on the radio, I'm tired of that. How you gonna enjoy good music without good marijuana? It's the track that I got with more sonic force than Africa Bambaataa. Just the other day I robbed the devil for her product. This is all brand new, no retro junk. Psycho blast, with the ghetto boom. Turn commitments, please only smash. And I don't need headaches, so I say no to relationships. Give me women that like to go on vacation trips. I can look 20 only if I shave, but I'd rather wolf out and look my age. Take that mask off, this ain't no masquerade. And let the beat rock so we can dance away. This shit is fire like that. All that shit on the radio, I'm tired of that. How you gonna enjoy good music without good marijuana? It's the track that I got with more sonic force than Africa Bambaataa. Just the other day I robbed the devil for her product. This is all brand new, no retro junk. Psycho blessed, with the ghetto boom. Enjoy good music without good marijuana. It's the track that I got with more sonic force than Africa Bambaataa. Just the other day I robbed the devil for her product. This is all brand new, no retro junk. Psycho blast, with the ghetto funk. Dai, questa qua era un po' più smossa, dai, come canzone. Ciao a tutti. Ciao Tony. Ma ci arriviamo al microfono. E stasera abbiamo un po' di problemi con i microfoni. Perché dopo abbiamo anche un ospite che è piccolo di età, ma è un po'... È un po' sì. alto. E vabbè, dai. Vabbè, torniamo a noi. Ciao. Stavamo parlando quindi del blog Biomaterra. Bello. Ma ah, poi ho dobbiamo, visto dobbiamo anche caricare i disegni. Meritano, quindi. Andate a vederli. Ottimo. E invece ci volevi parlare un po' dell'ultimo articolo che avete scritto a due mani, sì. Giusto? No, allora, l'articolo l'ha fatto lui. Io ho fatto le foto e ho fatto una video intervista. Ok. A chi? Al fotografo Marco Colombo. Sì, questa figura la dobbiamo intervistare prima o poi, ce lo diciamo ormai da anni. No, beh, in realtà non è che abbiamo mai parlato. Abbiamo mai parlato di lui? Non mi ricordo. Non è. Ah, no. Ho fatto Eric. Io una gaffa. Era Eric, era un altro fotografo. Ho detto io una cavolata. Manca solo Tony a fare cazzate stasera. State tranquilli che ci arrivo. Ok. ti conosciamo. Vabbè, niente, dai, parlateci un po' di questa intervista, cosa... Ok, allora praticamente il 16 febbraio siamo andati a Varese all'università e praticamente c'è stato questo incontro di Marco Colombo in cui lui ha spiegato insomma la sua vita, un po' quello che fa, insomma la sua passione che è la fotografia ma anche l'amore per la natura, quindi ci ha parlato delle sue fotografie naturalistiche, alcuni segreti come scattarle e no, insomma è stata una lezione molto interessante. E sì, tu noterai le aule, perché è un'aula universitaria dove è quella Monte Generoso. Sì, quella di economia. Infatti mi sembrava okay. Di ricordare qualcosa. Noi siamo ignoranti, credo. Brutti ricordi. No, vabbè. Io mi sono fermata prima. A me non mi ha fatto neanche entrare. E niente, prima dell'intervista, cioè prima di questa serata, gli abbiamo fatto un'intervista, insomma, un po' sulla sua fotografia, qualche aneddoto, diciamo. Quindi lui ha unito il lavoro con la passione. Sì, esatto. Sì. Bello. Lui in realtà nasce già come naturalista, esatto. Perché è laureato in scienze naturali e poi si è dedicato alla fotografia naturalistica. Bello. E poi dopo stanno scorrendo un po' il post, a fine del post c'è anche la video intervista. Sì, esatto. Giusto? Ok, esatto, ok. Esatto. Va bene, quindi se volete visitarlo e approfondire un po'. Scusate. Sai che questo qua tu è un momento che tu non ci rimai, perché questo è un momento un po' culturale. No, un ma po' più vedendo serio. Che lei fa le foto, disegna, e anche tua sorella, direi che è più un momento album di famiglia. Ma non, ultimamente non la porta più la macchina, giusto? Ce l'hai sempre lì in camera. No, ferma. No, l'ho usata venerdì scorso, la uso un po'. Ok. Così credo digitale, te, sì. Sì, certo. Sì, un po' evoluta, però comunque digitale. Un bel po' evoluta, dai. Non, sì, è, dai, no. Non è proprio base come macchina. Professionale, più o meno, sì, non sì, tantissimo. Sì, sì, sì. Va bene, allora lanciamo il prossimo brano e poi dopo vediamo un altro po' di argomenti da Bioma Terra. Va bene. Allora, il prossimo brano, non so se lo conosci, un brano del 2010 forse, Green Velvet. C'entra qualcosa col film? No. No, non c'entra nulla, si chiama La La Land, ma non c'entra nulla, però era un pezzo famoso di un po' di tempo fa. Until the end, looking for the after party to begin. I'm going down to La La Land. I hope to see you soon in La La Land. Something about those little pills, unreal, the thrills they yield. Pills, unreal, Vabbè, dai, siamo andati un po' più sul tamarro adesso. Sì, pubblicità di qualcosa? No, no, no, no, no, questo era un brano che a me piaceva. Io lo suonavo, lo suonavo spesso. Tu suoni 2000... anche altre belle cose. Smettiamola di fare queste insinuazioni sulle mie serate, dai. Vabbè, dai, torniamo un attimino seri. Tempo fa, adesso te lo racconto a te, visto che tu non ci sei stato nelle prime puntate di quest'anno, con blog Biomaterra. Dimmi. Ed era meglio? No, era diverso. Era meglio. Era bio. Era bio. Adesso è degradabile. Eh sì. E, praticamente abbiamo fatto, visto che loro hanno comunque un blog che parla prettamente di natura, delle pillole dedicate al lupo. Perché scusami, siamo a Radio Lupo Solitario. Giusto. Perché non fare delle pillole, delle piccole informazioni dedicate al lupo? Quindi, se non erro, stasera ce n'avete una, giusto? Non è che ho fatto una figuraccia. No, no, no. Dicono, non c'è più niente. Dici tutto, dici tutto. Questa sera, visto che siamo nel bel mezzo della campagna elettorale, volevamo parlare un po' delle elezioni, tra virgolette, che ci sono all'interno dei branchi di lupi. Perché, come voi ben saprete, all'interno della gerarchia del branco c'è lupo alfa, poi l'ultimo che viene chiamato omega. Però io recentemente ho scoperto che ci sono anche tutta una serie di gerarchie in mezzo, tipo lupo beta che è quasi un alfa al suo rispetto, può fare quasi tutto quello che vuole, si occupa anche dell'educazione dei cuccioli. E insomma è stata una bella scoperta. E allo stesso tempo anche però la figura dell'omega, che viene vista sempre un po' come l'ultimo, il reietto, è fondamentale all'interno del branco perché fa da valvola di sfogo. Fa valvola di sfogo ed è anche un po' tipo il giullare che ammortizza le situazioni di stress all'interno del branco. Te capito, Tony? Ma è il più anziano l'omega? No, no, no, no, no. Varia tantissimo dal tipo di comportamento, da quanto sono aggressivi, da come si approcciano con il resto del branco. Io potrei essere un omega, allora. È una sorta di leader, diciamo. Noi sì, abbiamo sì, leader, l'alfa è l'alfa, invece sì. Loro hanno l'alfa. Ma volevo chiedere, chi è che si occupa più dei cuccioli? Allora, all'inizio un po' tutto il branco, e loro sono in una situazione particolare perché non sono soggetti a gerarchia. Poi man mano che crescono invece iniziano la competizione e devono prendere un posto all'interno del branco. Dal libro che ho letto era principalmente il beta ad occuparsi dei cuccioli. Invece l'alfa faceva un po' quello che voleva. Andava in giro a sgombare. Sì, sì, sì. Scusa, te la che tra l'altro, come c'è un lupo alfa, c'è un lupo maschio alfa, c'è anche un lupo femmina alfa, allo stesso tempo un lupo femmina beta, un lupo femmina omega, come se fossero due branchi paralleli. Scusa, no, adesso non è per essere una battutaccia, ma appunto un lupo che bisessuale come potrebbe essere chiamato? Cioè, un lupo che... Io mi allontano quando fai queste cose. No, cioè, vabbè, cioè, il lupo maschio, il lupo femmina, però cioè, ci può essere questa ti particolarità. Ti senti tirato in causa? No, ma sto dicendo una cosa che potrebbe essere interessante. No. Vabbè, devo dire una cazzata, perché se no... Vabbè. Non lo so, mi coglie un po' impreparato. Non potrebbe esistere? Sì, penso di sì. Penso che cioè, venga... Cioè, sessuato, per dire, ecco. Sì, sì, sì. Penso che venga escluso dal branco perché non riesce a trovare una sua posizione, quindi... Dunque, il lupo solitario è un... Non diciamo fesserie. Va bene, va bene. Vedi, sempre delle cose interessanti. Poi sui io lupi... sono curioso. Vedi, e poi tra l'altro questo mese sul National Geographic c'è l'articolo sui lupi. Su febbraio proprio ottimo. Tutto dedicato al lupo, quindi ottimo, comprate ottimo. Il National Geographic. Quindi le prossime settimane avremo qualche informazione da estrapolare da qui. Esatto. Va bene, grazie per tutte le vostre ricerche e informazioni. E altri articoli che avete in programma poi per le prossime settimane? Ma allora anzi, io... facciamo i prossimi mesi, ma che no, ho già allora, capito come era andata. Andata lunedì ad una mostra, sono andata a vedere una mostra scientifica sulla NASA. È stata molto interessante, c'era anche il simulatore di volo. Sì. E no, è stata molto bella e quindi dove l'hai vista? A Lambrate, Milano Lambrate. Ok. È un po' vicino alla stazione, però finisce il 4 marzo, quindi insomma, sono andata un Vabbè, po' alla fine. Ancora un paio di settimane, dai. No, una settimana. Scusami, domenica no, il 4 di meno, marzo. Di meno, 9 giorni. Ah, è vero che sì, ce ne sono 28. Quindi manca un po' poco, però vabbè, dai. Scusami, hai mai detto che tra una settimana fai il festino perché io sono ai seggi, quindi Sì. Lanciamo il prossimo pezzo, Sara. Allora, non ti ricorda nulla il prossimo pezzo, mi chiedeva un'ascoltatrice, Katia. Sì, ve lo ricordo. È una canzone di un film. Sì, sì. Step Up. Sì. Ok, lo devo presentare io. Lui allora, è caduto, lui sono cadute le ginocchia. Lascia stare che è di Step Up, però... No, cioè, però hai visto bella, chi è che l'ha fatto il brano? Sì, beh, ma... Qui, quasi il tuo gruppo preferito, credo io. No, qui no, è arrivato Baglioni con Io me ne andrei. E chiudo anche la porta. Va bene, quindi? Ok, andiamo ad ascoltare Fancy Footwork di Cromeo. Dei Cromeo, sono in due. Non è vero, siamo stati, siamo entrati proprio sul finale, dai, yes. Dai, ci siamo stati proprio al limite, dai. Va bene, quindi non ti ricordavi di questo film? Tu non l'hai mai visto questo film? Non penso che sei uno che guarda questi sì, film. Sì, l'ho visto un sabato pomeriggio, che è un po' un cavolo da fare. Sì, di solito sono un film ti sei addormentato? Sabato, domenica, pomeriggio. Ti sei addormentato? Sinceramente, ma sono tutti uguali. Che poi vabbè, non so, la trama sì, però ma è quella, quella che lei faceva la DJ, era... O lui faceva il DJ. Ci sono di questi film. Vedo che hai le idee molto chiare. No, è vero, è vero. La trama è quella più o meno. Lei o lui? E ci sono due film diversi dove c'è il musicista che fa il DJ, che non lo caga nessuno. E dall'altra parte che lei. Ah, sì, sì. Non è lei... questo. Non è questo. Non il è film. Step Up. Perché, ad esempio, nel genere c'erano due ballerini, forse. Sì, sì, sì, sì, perché sì. Ci sono anche Step Up è sicuramente solo sul ballo. Invece sì, questo sì, era sì, sul canto, credo, se non mi confondo. Vabbè, qualcosa del genere. Comunque no, dai, ogni tanto ci stanno. Mamma mia, sì, smollati. Sempre robe serie. Mamma mia, io... sempre robe serie devi guardare. Io di canto mi ricordo solo il film Checco, di Checco Zalone, quindi. Sì? Dove lui era un cantante, voleva sfondare. Quello, nemmeno quello ti piace. Quella famosa, sì, famosa canzone Angela. Angela, te la ricordi? A lui all'inizio non mi è mai piaciuto più di tanto. Ci avrei scommesso. Ci avrei scommesso. Poi piano piano lo, mi piace. Perché Tony è una persona seria, no, lo ricordiamo. Ha fatto la canzone sulla sugli Juventini, già lì. Vabbè, però vabbè, poi... Vabbè, lo so. Adesso però vabbè. È bravo. Va bene, va bene. Allora, salutiamo Sara e Emanuele per il blog Biomaterra. Per l'infinito. No, no, no, no. Vediamo, no, beh, vediamoci più spesso. Dopo, no, sì, verso sì, fine dai, puntata. In realtà, se volete restare a dire qualcosa, come diceva la Cri. Sì, sì. Adesso... male non fa, non, potete sì, stare, sì, possiamo anche parlare. Respirate l'aria benigna di questa radio. Sì, con i phon assorbenti ormai impregnati di qualsiasi, appunto, della qualsiasi. Magari ci facciamo cambiare un po' di cose a gratis. Da chi? Da qualcuno che... Ah. E questo non lo sapevo, allora vabbè. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano e poi dopo introduciamo il nostro prossimo ospite. Ah sì, va bene, vero, vero, ah, vero, vero, vero. Allora, il prossimo brano è degli Adventure Club. Hanno fatto un album nuovo che si chiama Red e Blue ed è una musica molto elettronica, ma veramente di classe, secondo me. Hanno fatto un bel lavoro. Dici che già dal nome club... dà l'idea di quello che fanno. Sì, sì, sì. Un po' particolare. Questo qua si chiama Limitless e non è male. Andiamo a ascoltarlo. My innocence, how it always seems to get lost in violence, we always seem to get caught. It's no coincidence that we're running from the past. Forgiveness wasn't something that we limitless. We're living limitless. I refuse to just exist. I'd rather shoot and miss. So I'ma raise my fist and live it limitless. Exist. I'd rather shoot and miss. So I'ma raise my fist and live it limitless. My face. Dai, non sono male. No. Poi il genere è un mischione, perché sì, passa da quel pianoforte quasi ambient, visto che stiamo parlando di... E poi c'è questo drum quasi trapstep, un mischione di generi, dai. Adesso stai parlando da figo perché abbiamo qui un ospite. Allora, dai, presentacelo. Presentati te, dai, vai. Buonasera a tutti. Ciao, come ti chiami? Andrea Lavona. Fai? Il DJ. Bravo. Quanti anni hai? 15. Sembra che ne ha di molti di più come l'altezza, noi siamo mai... Sì, in effetti. È un po' emozionato, come stai? Bene. Ma sì, non è nulla di diverso, no, che fare un DJ set, no, dai, tutto sommato. Anzi, è anche più facile, dai. Va bene. Abbiamo ringiovanito un po' l'età qua dentro. Sì, infatti. Poi avevamo detto che stasera ci sarebbe stata tanta gente, quindi... Sì, infatti. Tutto sommato. Anzi, mancano anche qualcuno all'appello. Sì. Io lo cazzierei quando tornate a casa. Andrea, tu conosci questa persona che manca? Ma un tale Jonathan o Jonathan, non mi ricordo mai se Jonathan o Jonathan. Dipende dalla giornata. Io lo chiamo Giorgio. No, che che insulto, dai. Ma sì, dai, va bene lo stesso. Vabbè, male. No. Non lo so, è vero, può darsi che se lo chiamiamo Giorgio, se la prende a male inizia a venire a Jonathan, magari. Sì, magari sì. Dai, va bene, abbiamo trovato il modo di farlo uscire di casa, dai. Vabbè, poi parleremo con Andrea cosa fa nella vita. Sì. Già sembra una cosa da vecchio. Quali sono le sue grandi esperienze, perché voglio dire. No, beh, vabbè, scherzo. No, mi hanno già spiegato che hai fatto un bel po' di serate, quindi sì, un po' sì, di esperienze ce le hai avute, dai. Poi sentiremo da teenager cosa gli piace. Giusto, mi piace l'idea. Quindi andiamo ad ascoltare un brano della Mezzatonica. Adesso ti spiego. Lo spiego. Andrea, questa è una mia canzone che scelgo. Sono due canzoni ogni mezza della serata. E più o meno. Sono delle canzoni, sì, più o meno. Adesso fa preciso. E come se fossero suonate in una spiaggia, al tramonto. E possono essere un po' dance, però anche molto atmosferiche, come questi sottofondi che fa il nostro amico Dome. No, Tapiaso? Tapiaso. Allora, ho scelto un trio, no, anzi un duo, che si chiamano Jack U, che sarebbero Skrillex Diplo, conosci? E hanno fatto una canzone con Justin Bieber, che però la traccia che ho scelto io non è cantata da Justin Bieber, fa parte dell'EP. Cantata da te? No, ti prego, no. C'è anche qualcuno peggio di me, che in questo studio, che non sa cantare, vabbè. No, è cantato da un altro gruppo che si chiamano Ember Island. E praticamente è una tipa, un duo elettronico, e che è una cover del pezzo che hanno fatto con Justin Bieber. Ok. Quindi andiamo ad ascoltarcelo. Ok. I gave you the key when the door wasn't open, just admit it. See, I gave you faith and your doubts and a hope, and can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. Where you broke down, I didn't leave you. I was by your side. So where are you now that I need you? Where are you now that I need you? I gave you attention when nobody else was paying. I give you the shirt on my back, what you're saying, to keep you warm. I showed you the game everybody else was playing, that's for sure. And I was on my knees when nobody else was praying, Lord. Thank you. Intanto Tony con questa musica rilassante si sta ammazzando, non capisco cosa sta facendo. Comunque sì, dai, non bene bene, uno in meno. Dormo con l'occhio solo. avanti un altro. Tanto okay. Ne abbiamo qua di... Infatti, avanti un altro. Vabbè, comunque il pezzo era bello. Grazie. Molto rilassante. Il pezzo originale a me piaceva particolarmente perché comunque mi piace lo stile, però dai, sì, tutto sommato... Sì, piace Skrillex. No, sì, perché no? A te piace Skrillex? Preferisco anni 80-90. Anni 80-90, però... Sono vecchio a scuola io. Porca miseria. Ma di nuovo cosa ti piace? Adesso come... Quelli che ascoltano i tuoi teenager, cioè... Metti in difficoltà ora. Ah, io. Veramente sei proprio... Sì, sì. Anni 80-90, beh. 80-90. Beh, anni 80-90 sono i migliori da mixare poi. Sì, è vero, sommato. È vero. Poi... Quindi non è male l'idea. Infatti mi stava proprio dicendo che a lui piace suonare di più anni 80-90. Una canzone in particolare che hai nel cuore? Non saprei, guarda. Una a caso, cioè... Una che ti ha colpito mentre la suoni e dici... Che bella canzone, cioè mi piace proprio suonarla. Beh, se mi dici così mi viene in mente Gigi Agostino, Amor tu giurra. Mamma mia. Vero, ti devo dar ragione. Tu hai suonato, io non l'ho suonato. L'ho suonato, Paolo. Credo di sì. No, era giusto per... No, ti spiego perché lui ha fatto una... Qualche tempo fa in qualche posto una cosa che hai fatto te settimana scorsa, una salente disco, ed era basata tutta su anni sì, 90-2000, e lui che ha questa faccia molto seria ha messo su pezzi da pezzi Agustino. Da 90. Rubandomi la chiavetta. Era la tua? Rubandomi la mia chiavetta. Vabbè, adesso non è che dobbiamo spiegare tutti gli altarini, insomma, non è che voglio dire. Va bene. E, stavamo parlando prima fuori onda? Dicevi? No, volevo chiedere al nostro Andrea com'è nata questa tua passione per la musica? È nata per caso quando avevo 6 anni, che, grazie a mio padre, che abbiamo già... qua e lo salutiamo. Purtroppo. Che già lo faceva da ragazzo anche lui. Ah. E niente, mi sono appassionato piano piano, ho iniziato a prendere lezioni da lui e dopo qualche anno ho iniziato a fare corsi, ne ho fatti 3. E ho iniziato a suonare in giro e poi sono andato avanti. E poi sei andato avanti, hai continuato diciamo un po' l'eredità che ti ha lasciato tuo papà. È bella questa cosa, è molto bella. Ma gli hai lasciato anche dei dischi, qualcosa? Assolutamente sì. Ma suoni anche vinili? Porca miseria. Sì, quelli che ho rubato a Tony. Sì, no, ma sotto un piccolo compenso ho preso i dischi pure che... Sì, beh, lui è arrivato così all'improvviso perché io l'avevo messo in vendita. Suo padre da grande manager che quanto vuoi per questa roba qui? Questa robaccia, cos'è che c'avevi lì? No, tutti dischi anni 90-2000. Fine anni 90-2000. Tenuti benissimo, credo, perché sono stati praticamente usati pochissimo. Molta musica che piaceva a me, però penso che si farà... Quindi erano tutti B-side. No. C'è Gigi Agostino, c'è un po' di tutto, anche molta trance, queste cose qua. Usati pochissimo. Sì, no, è vero, purtroppo sono stati usati pochissimo. Quindi ha fatto un affare, ha fatto bene. Sì, hai fatto bene. No, volevo chiederti una cosa invece, giusto poi prima di chiudere l'intervento. Vedi, adesso c'è questa moda dei corsi, no? Perché evidentemente quando abbiamo iniziato... Tu hai fatto... Vabbè, quando facevamo... No, tutto da solo. Probabilmente quando facevamo anni fa i DJ non c'era mai il corso. Ma... Cioè, com'è che funziona un corso da DJ? Quello che mi sono sempre chiesto. Beh, tutto paghi, quello è certo. Su quello non ci piove, proprio. No, ci sono vari corsi. I primi due che ho fatto erano... meno approfonditi, diciamo. Mi hanno insegnato soltanto a mettere a tempo. Quindi c'è anche un minimo di teoria, tra virgolette? Sì, nel terzo che ho fatto era tanta teoria. Ho capito. Ma poi dopo, scusami, ma poi dopo ti permette anche di fare magari qualche serata collegata al corso? No, proprio scollegato? Ho capito, va bene. Ma di teoria, cosa... cosa consiste? Mi hanno fatto studiare vari programmi. Come Record Box, che okay. Analizza le tracce. Ok. Mi hanno fatto preparare il mio DJ set. Ah. Oppure anche, che so, leggere una canzone, note, cose qua. Però una cosa abbastanza profonda. Questo l'hai fatto a Fagnano, quello un po' più sì. te conosci. Come si chiama? School. Come si chiama? Phonica School. Tu la conosci? No, non lo conosco, però. No, però conosco un altro ragazzo che era venuto tempo fa, non so se te lo ricordi, Andrea Miola, sì? Che anche lui aveva fatto un bel po' di corsi, forse anche a Fagnano, forse magari. Sì, no, perché ho visto che sono passati anche dei famosi DJ a fare, non so, tipo una prova, cioè, mi sembra. Live. Dei live, come quello di Planet Funk. Ma dai. Alex Neri, no? È passato di là. Però. Sì. Sì, no, ci sono rimasto male. Prima di tutto, perché Planet Funk è un grande gruppo. No, poi ho saputo una brutta notizia per i Planet Funk. È venuto a mancare uno del gruppo. Forse settimana scorsa, sì. Adesso vado a informarmi meglio, però mica di dire fesserie in radio. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano, poi dopo riprendiamo un po' con questa breve intervista, dai, questa excursus veloce. Il prossimo brano è degli MGMT. Sì. Così? Sì, questa è la Tony, questa canzone qua, sicuro. È tua questa canzone. No, la mia viene più tardi. E il brano si chiama Kids. Kids. È bellissimo, dai. Sì. A me piace un casino sto brano. Questi qua non sono gli uccellini della mia sigla, no. Allora questi sono bambini. Sì, Kids. Adesso non mi ricordo di quando. Perché? No, no, mi sembra di mixare. E vabbè, dai, non è difficile. E no, non mi ricordo di quando è questo pezzo, però mi ricordo che era molto, molto in voga. Sì, no, forse 2014, non vorrei dire una gran fesseria. Sì, mi ricorda un po' un Calvin Harris di primi tempi, vero? Sì, sì, sì, sì, sì. Ci abbiamo anche lui in scaletta stasera, però con l'ultimo album, devo dirti la verità. Va bene, torniamo un attimo col nostro ospite, che mi diceva che venerdì scorso, giusto, avevi fatto una Silent Disco. Come, ma era la tua prima esperienza di Silent Disco? Silent Disco, sì. E come, io ne ho fatta anch'io solo una, non è andata male, come... No, è stata una bella esperienza da rifare, assolutamente. Chi è che aveva la maggioranza dei canali accesi, sinceramente? Ma andava... Ah, variava, sì, beh, è vero. Un po' e un po'. Sì, questo l'ho notato perché io sono sempre stato contro le Silent Disco, perché non mi piace, beh. La musica si deve sentire. Ah, c'era anche nella sala. Che padre, che cos'è che vuole tua sorella? Sì, però era il primo che poi dopo saltellava quando abbiamo suonato, eh. Ah, vabbè. Sì, vero, vero. E faceva freddo, eh. Però io ho notato nelle Silent Disco, correggimi anche tu se sbaglio, nel momento in cui ti togli le cuffie e guardi la gente che balla, ti sembra di essere in un ospedale psichiatrico. Al nosocomio, essenzialmente. Sì, diciamo di sì, perché magari uno suona, cioè sta suonando un lento, quindi vedi uno che balla lento, uno magari che canta squarciagola. Ma infatti, ma poi come comico. Si muovono, capito? Cioè, sì, tu sì. Sei lì senza cuffie nel momento esatto. In cui te le togli e dici, ma cosa sta succedendo? Andrea, com'è nata l'idea della Silent Disco? Cioè, visto che tu comunque, tu hai visto, ti seguo, che suoni sempre... Ah, sei uno stalker, quindi. No, vabbè, mi fa piacere perché ha iniziato anche la sua carriera, oltre a suo padre che finanzia e finanzierà anche noi, credo. Dopo, cioè, magari... ho dato un primo step anch'io, dai. Magari riusciremo a parlare anche con loro prima della fine della puntata. Sì, infatti non so cosa sta guardando sul telefonino. No, si stanno già preparando alle domande che gli chiederò dopo. No, appunto, com'è nata l'idea della Silent Disco? Ma io sono stato chiamato come DJ e basta. Ah. Al comune di Donate Ceppino. Ah, ok. Poi avete proposto voi. Così magari si poteva fare anche casino senza fare esatto. Rumore. Calonate non si può fare tanto. Sì, vabbè, un paesino. No, infatti la soluzione buona della Silent Disco è proprio questa, nel senso che mi ricordo tipo quest'estate comunque abbiamo tirato per dire le tre. Cioè, perché normalmente non si riusciva a suonare oltre già mezzanotte in un evento estivo. All'aperto poi... Vabbè. Era cioè un delirio. Invece con questa invenzione della Silent Disco. Anche tipo, adesso c'è ancora Sara qua, che lei è andata alle prime che avevano fatto a Cassano, giusto? È vero? E se, dimmi se non sbaglio, tirate anche lì, tardi. Se non erano le 3, le 4. Cos'è, in mezzo ai boschi? Alla Magana, Parco Magana. Era una delle prime nella nostra zona, è stata. Dite che si è persa nel bosco, poi che... No, tra l'altro lì magari non so se c'è proprio un avvallamento in fondo. Secondo me, sai quel buco che c'è in fondo lì? No, bello. Secondo me c'è ancora qualcuno lì della sala. Hanno da recuperare soprattutto le cuffie, che non so cosa costano. Eh no, le cuffie sì, no. Il cuffie è un bel costo. Dica. Vai Cristina, non dici. No, io volevo... Ho ancora dei dubbi sul fatto, quando balli in una sala in disco... Magari il tuo compagno o comunque il partner di ballo, che ne so, ha su un'altra musica, io sul lento, tu hai su una rock. Un veloce. Sì, ne ho visti tanti, ma non so come, ho visto che riuscivano a ballare comunque. Gente che a 15 anni ha già divorziato. Sì, infatti. Era un po' strano. Beh, comunque è bello perché ti dà la possibilità di sentire diversi stili musicali, diverse categorie. Sì, sì, è bello perché comunque puoi cambiare, poi c'è una canzone che non ti piace, vedi se nell'altro canale c'è una musica un po' più... Ma io immagino, chi potrebbe fare un canale solo di musica lenta? Cioè... Era un esempio. No, dico. Vabbè, se vai nelle feste del paese, comunque trovi anche i signori Shuri. Che ballano lì. Che ballano la Silent Disco. Immagini con la mazurka. Vabbè. Visto che hai un repertorio così un po'... Diciamo 80-90, magari buttaci dentro anche Panzer e tutte queste vabbè, cose. Non esageriamo. Un tango. Però sarebbe male invece della Silent Disco plus Nonno Disco. Nonno Disco? Vabbè. Vabbè, questa è peggio di quelle che dico io, eh. Vabbè, sì, vabbè. No, ma ormai non mi stupisco più di niente, tranquillo, cioè. Vabbè, visto che abbiamo parlato di musica da ballo, lanciamo il prossimo brano, dai. Dai, facciamo una... Sì, dai, dai. Andrea, scusate. Ah no, vai. Io su Kids avevo trovato un'informazione. È un blog pugliese. Kids, la canzone di prima. Ah. Kids. Sei proprio un pirla. È stato pubblicato il 13 ottobre 2008 ed è presente nella colonna sonora di FIFA 2009. Che paura. Ma che FIFA, le colonne sonore di FIFA sono sempre, hanno sempre dei sì, pezzi. Sì, hanno dei pezzi fatti anche apposta a volte. No, vero, ma, sì, vero. Cioè Blur dei Song 2, cioè scusami, Song 2 dei Blur, ha fatto successo con FIFA 2000. FIFA 2000. Te Andrea vero. Giochi a videogiochi zero. Videogiochi zero. Te sei di un'altra epoca questo ragazzo, cioè. Vabbè. Mi sa che il papà che è un po' più... Dai, allora lasciamogli lanciare dai, il prossimo brano. Sì, dai, Andrea. Dai. Il brano è questo. Scusate il mio inglese. Vai, traghe qua. Lenon, ok. Major Lazer. Ok, e ok. DJ Snake. Quindi andiamo un po' sul tamarro. Se l'avete fatto perché voi non sapevate dirlo, dite la verità. È vero. Vabbè, il brano, non so se tu hai mai visto, c'era una parodia di questo brano, magari Sara se lo ricorda, che c'erano, sai che c'è la parte dove c'è la, il ritornello, no? E c'è la parodia con il verso delle capre che fanno... Te l'hai vista? Sì, me l'avrei mandata. Te l'ho mandata io. Te l'hai vista questa roba qua? Era non una sai cosa... che youtuber, te zero youtube. Questo ragazzo poco. Vive... Vabbè, ma meglio così. Cellulare ce l'hai? Infatti. Sì, sei puro. Sì. È puro sto ragazzo. L'unica cosa del giorno d'oggi. Il cellulare. Vabbè, se poi con la ragazza, per forza con qualche cosa ti vai a sentire. E vabbè, poi... Beh, dimmi. C'erano i piccioni viaggiatori un tempo. È pericolosi però, eh. Che erano descritti nella canzone di Povia, poi tra l'altro, i piccioni viaggiatori. È vero. Io me ne andrei. Ok. No, stavamo parlando prima in realtà dei Planet Funk, però ti ripeto, dovevamo dare quella triste, una triste notizia che è venuto a mancare Sergio Dalla Monica. Della Monica. Sì, che ho è il fondatore, era il fondatore poi dei Planet Funk. Invece forse quello che ci parlavamo prima era Alex Neri, che in realtà... Sì, è il DJ lui è... Mi sembra anche che lui... molto bravo, anche molto sì, bravo. Sì, lui è toscano, mi sembra, non è napoletano, come tutto il gruppo, mi sembra. Sì, sì, sì, il gruppo è napoletano, di base è napoletano, sì, sì, quello sì. Niente, stavamo parlando quindi della Silent Disco, direi che abbiamo concluso. Sì, i miei dubbi sono stati chiariti. Perfetto, perfetto. Allora parliamo dell'altro argomento di oggi, che mi piace un casino in realtà. C'è Guarda. Stato un World sì, che poi, Guinness World Record, sì, che in Svizzera. Non sembra neanche che fosse, cioè, fosse in coppia, sì, ma un altro DJ da solo l'ha fatto. Non sono riusciti a superare. Allora, spieghiamo che cos'è. Allora, tu Andrea hai sentito questa notizia. Allora, la radio svizzera ticinese R3i, mi sembra si chiama. Sì, sì. Due speaker della radio hanno fatto per scommessa di battere il record del mondo di diretta radio. Per sì. Continuamente, cioè per 8 ore. Il record, non so, mi sembrava era di 100 ore. Cazzo, cioè, tu sono sparati. 100 ore? No, beh, quello non lo so, bisogna vedere se sono ancora vivi. Dunque, lì 5 giorni praticamente svegli davanti a quello che stiamo facendo noi, però moltiplicato per... Eccolo qua, 100 ore. 100 ore di diretta radio. E sono sì, riusciti, ma alla fine quante occhiaie avevano? Erano conciati male. Guarda, con una cuffia sola mi avevo fatto peggio. Sì, beh, ma scusami, chiamavi me e te lo facevo più bello. Sì, Kung Fu Panda. E vabbè, praticamente sono stati 100 ore e se non sbaglio ogni ora avevano 5 minuti di pausa. Tipo c'ha quasi la faccia. Deborah vuole in bagno, dire qualcosa. Si cambiavano. No. E poi sono andati avanti così per fino a vincere, cioè fare il Guinness dei primati. Tra l'altro loro conducono una trasmissione che ogni tanto ascolto, che in Ticino non c'è mai niente da fare. Che praticamente si prendono in giro un po' tra svizzeri, dicendo che in realtà loro lì che fanno lì in Ticino? Non fanno niente. Fanno questi record. Fanno... Che devono fare? Non hanno niente lì in Ticino. Vengono in Italia, hanno i laghi, fanno la spesa, che fanno? Appunto. Te, Andrea, come radio, cos'è che ascolti? Beh, dai, dillo anche i nomi. Se ascolti radio. Raramente. Come il teenager di oggi. Eh? Radio DJ si ascolta. Ok, vabbè, dai. Lo solviamo per questo. Beh. No, Radio DJ, ma mi sa che si ascolta le cose registrate degli anni 90. Le puntate precedenti. Sì, sì, il DJ Time. Beh, io ammetto di ascoltare ancora su YouTube, ci sono le puntate di Ravelli e del DDD e dell'Alternative Hit. No, su Facebook guardo qualche video. Tu ascolti Marco Ravelli qualche volta, no? Beh, qualcosa... Non gli hai segnato niente. No, vabbè, è il DJ che, diciamo, con Albertino hanno spalleggiato negli anni 90. La prima metà Albertino, il DJ Time. La seconda metà Marco Ravelli su Disco Radio. Io guardo le repliche del Festival Bar. Anche, non è male. Andrea, hai visto il Festival Bar qualche volta? Bello, bello, veramente. Era proprio un periodo dove quest'anno potevi ritorna. Viaggiare nel... Sì? Dicono di sì. Oh. Cioè, praticamente il Summer Festival che fanno su Canale 5 lo chiamano Festival Bar. Sì. Oh. Però vabbè, sarà itinerante, credo. Cioè, ma dopo c'era anche un altro, forse Wind Music Festival. Sì, sì, sempre quello. Sì, vabbè, metti che cambia lo sponsor. Però la Zolfo è sempre quella. Però, sai, Festival Bar, poi uscivano i CD e andavi a comprarteli i CD. Che adesso... ne so, aveva una copertina rossa, sempre questo sì. fiore o blu. Immagino Tony quando uscivano i CD. Sì, li masterizzavo dopo. No, ecco scherzo. Che la finanza sta per arrivare. No, ma non sono andati. Diciamo che è andato in prescrizione, io ero quelli come suo papà che al sabato pomeriggio magari andavano a casa del disco Varese a scegliere i dischi... E vorrei mettere la sigletta Remember. Vero. Vabbè, a proposito di Remember, il brano che ascoltiamo dopo è un pezzone, dai. Sì, è un pezzo classico della radio. Dimmi. Ma a proposito di Remember, Tony, toglimi una curiosità. Tu sei uno che andava in discoteca la domenica pomeriggio? Beh, ho fatto anche il DJ la domenica pomeriggio. E... Sì. Bei cioè, tempi, andavo anche cavoli. In periodo che magari è un po' fuori di età, sinceramente. È vero, sì? È vero. Sì, non so perché, vabbè, potevo pensare per un piccolo pedofilo. No, scherzo. No, perché l'età media era 14, 15, 16 anni. Io forse avevo già anche 20 anni. Cioè, ah, sì, caspita. Vero. No, però, vabbè, la domenica pomeriggio... Vabbè, 5 era... anni meno di te. Sì, cioè, la domenica pomeriggio era il classico. È vero. E anni sentono prima... in sottofondo le sirene della polizia. No, a no, no, no, no, assolutamente. Va bene, dai. Quindi stavamo dicendo, andiamo a ascoltare il prossimo brano che è dei... Vediamo... Vai Andrea, vediamo... dai, dillo te Andrea. Questo è facile. Disco Labirinto dei Subsonica. Stavamo dicendo roba. Che loro sono un gruppo storico e secondo me anche da Guinness, dai. Ci sta, no? Quello da bere? No. Era il lontano 1999. Minchia, era proprio zero, ho indovinato subito. No, non me lo ricordavo, microchip emozionale era l'album. Sì, bello, bello. Tra l'altro l'album non mi ricordo, però mi ricordo che era un album spettacolare. C'erano dei pezzi davvero liberi tutti, il cielo su Torino. Il mio DJ Depre, che l'ho ascoltato, guarda, per caso stamattina, è un brano che praticamente nel testo della canzone nomina tipo un'infinità di medicine. Davvero, davvero. Beh, anche Aurora Sogna comunque. Aurora Sogna, giusto, è vero, anche Aurora Sogna mi era sfuggito. Come... Parla comunque sempre di... Subsonica ti piacciono, ascolti, no? No. Troppo non moderno. La conoscevo, ma adesso... Vabbè, ci può stare. Beh, nuova qualcosa. Ossessione la conoscerai dei Subsonica. Bisogna fargli sentire. Stare, ci potrebbe stare in un DJ set, sì, qualche pezzo dei Subsonica. Sì. Sì, sì. Te lo consiglio. Vedi, il testo di Depre, Raldol, Darkene, Tripozol. Ah, sono tutti i nomi di... Valida, Batran, tutti i nomi sono di... Veri, nomi sono facili. Veri. Sì, infatti. Sono veri. Sì, magari settimana prossima magari la passiamo giusto come lassativo. Volevi provare un po'. Giusto come testo lassativo, mettiamola così. Okay. Quindi abbiamo parlato un po' del Guinness World Record. Che fatto questi svizzeri hanno vinto. Comunque... Vogliamo provarlo a fare anche noi? No. Non ci penso neanche. Comunque, Tony, spero che non l'abbiano detto in onda che vanno a fare la pipì in bagno. Noi abbiamo avuto anche questo. Sì, caro mio, caro mio. Ma pensa se avessero un bagno come il nostro. Secondo me non vanno a fare il bagno. Dopo 10 minuti chiudevano già la trasmissione. Vero, vero. No, c'era. Ripeto, io ho seguito anche proprio il. Come si dice? Lo studio in diretta, no? Tipo la webcam. Avevano una buona, diciamo, entourage, perché c'erano, vabbè, medici, credo. C'era il medico, c'era il medico. Però, c'era degli chef che preparavano da mangiare. E mangiavano giusto, cioè nel senso hanno calibrato la dieta. Vabbè, in modo da non essere troppo appesantiti, da essere... Dimmi. Scusami, visto che noi facciamo il programma alla sera, orario di cena, chiediamo anche alla gente se qualcuno si offre a farci da chef. Cioè, perché no? Sì, vengono a farci da mangiare. Tu di sì, non finta di niente, vedi. Anzi... Se accettate il nostro invito e volete candidarvi come chef del nostro programma Wolf Trips, che contattate il 338-222-8983. Siamo in attesa di curriculum di... Poi di gente. Il posto di lavoro è Casa Biancardi. Via. Vabbè, quello non lo diciamo. Andrea, lo faresti un DJ set giusto per battere un record tipo un giorno? Beh, l'età ce l'hai, cioè, no. Sì, ce la può fare il ragazzo in gamba. Sì. Sono andato 6 ore una volta, ma... 6 ore. Mi stavo per sparare. Dico la verità. Sai che mi sa che l'ho fatto anch'io 6 ore? Era stato veramente tosto. Mi ricordo, cioè, poi il nome uno non se lo ricorda più, cioè... Non so più neanche chi sei. Però devo dirti la verità, era stata una serata talmente tanto carica che quando ho finito adrenalina. C'era ancora adrenalina, sì, sì. Tra l'altro, volevo chiederti, prima stavo parlando con tuo papà e mi stava dicendo che voi suonate anche non in zona, cioè girate un po' con la vostra musica. Sì, suoniamo un po' dappertutto. Ah. Provincia, il Varese, ma anche fuori. Infatti mi stava dicendo anche Milano, Roma, così. No, beh, Roma non ancora. Però ci proviamo, dai. Proviamo. Magari infatti. Se hanno un amico deputato senatore. funziona così. Io una volta, suonavo in una banda di paese, suonavo. Che cosa? Il piffero. No, il flauto traverso. E siamo andati a suonare in Parlamento a Strasburgo. Wow. Sì, è stata un'esperienza davvero bella. Cioè, voi due siete due musicisti. Hai visto? Senza volerlo. Tu, Andrea, sai suonare qualcosa? Zero. Suonare la pianola, ma... Vabbè. Quella dei bambini. Esatto. Quando avevo 2 anni. Che tra l'altro se dovessi riprendere le mani adesso non ti ricorderesti più. Ma sinceramente non so neanche più dove è finita. Come è fatta la pianola? E niente, quindi raccontaci un po' dell'esperienza che ti è piaciuta di più, dove hai avuto anche più riscontro dal pubblico che ti ha sentito. Era tre anni fa forse, a luglio del 2015 se non sbaglio, sempre a Monte Cepino. Era una notte bianca, c'erano 1200 persone, qualcosa del genere. Cioè, capito, lui ha 14 anni così, cioè non è che io Ibiza che dico io sono un DJ mi caga nessuno. C'era la piazza piena, era incredibile vederlo. Però... E io solo cosa? Tu sei un caso a parte, cioè okay. Sei patologico, senza speranze, quindi va bene. No, poi lui l'anno scorso hanno iniziato a fare anche lo schiuma party. Sì. Ah. Sì, sì, anche lui si dilettava sì. A sparare. Però, ma tu tra l'altro sei giovanissimo, cioè hai? 15 anni. 15 anni. Appena quindi compiuti. 3 anni fa. Sì, caspita. Veramente. Beh, potrà solamente salire e basta, cioè. Sì, sì, sì. Un giorno lo vedremo al Tomorrowland, credo. Non speriamo. Lo so. Però mi sa che devi cambiare un po' il target musicale. Esatto, tu tieni esatto. Sempre l'80-90 come base. Eh sì. Ma anche magari tipo le rivisitazioni, cioè tipo, che so, metti un brano originale degli anni 80 e poi ci piazzi sopra un remix anni 80. E non è male, da valutare come idea. Passiamo invece ai giorni nostri. Ai, che bello sto pezzo. È bello, è bello. Sì, sì. Non c'entra molto con l'elettronica, ma mi piace il brano. Sì. Sai che noi comunque mettiamo musica... Stasera siamo molto, come dicono, i mainstream. Il brano è di Calvin Harris, feat. Pharrell Williams e Katy Perry. E che ti perdi? E che ti perdi. Più Big Sim, che non so chi sia. È un brutto e il brano uomo. Si chiama Feels, che è un misto, secondo me, tra il reggae e l'hip hop, l'R&B. Sì, Calvin Harris è cambiato completamente il genere. Ecco, questo album qua che ha fatto, che si chiama Funk Out, è molto R&B. Ci sono anche sì. Altri molti pezzi fatti il primo con singolo Nicki Minaj. Mi ricordo adesso il primo singolo, come si chiama? Con Ocean, qualcosa, il cantante. Sì, sì. È stupendo. Bellissimo, bellissimo. Potrebbe essere una mezza tonica. Va bene, allora dimmelo, perché sennò l'avrei messa nel programma. Quindi andiamo ad ascoltare Calvin Harris con Feels. Goddamn, I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Questa qua era di Calvin Harris, Feels. Però c'è qualcosa di elettronico, dai. No. Non lo so. La faccia della, di Andrea non è molto convinta. Dai, per il rotto della cuffia. Ti è piaciuto, Andrea? Sì, una bella canzone questa. Vabbè. Dai, novità, questa è una canzone... Beh, novità, oddio. Adesso, novità. In radio saranno già 6 mesi che la propina, no? Novità, diciamo, perché come album è abbastanza nuovo. Sì, l'anno scorso è stato un po' così, un cambio di marcia, cioè questo suoni un po' funk. Sì, però ti ripeto, cioè, è questo album qui che ha fatto Calvin Harris che ha cambiato un po' il genere, però sicuramente tornerà a fare poi la sua musica tamarrina. Bruno Mars. Sì. Intanto abbiamo perso la Cri che è morta e io volevo fargli proprio una domanda a lei, non so cosa sia successo. Ma non ti è arrivato il meteo per questi giorni? Sai che noi alle 9 praticamente abbiamo il momento meteo. Senti, no? Già il mio cellulare oggi è vivo per miracolo, che non l'ho ancora defenestrato. Quindi, guarda, è arrivata con un altro cellulare. È arrivata. È arrivata in mio soccorso, grazie Tata. Allora, infatti, oggi era interessante da dirlo il meteo, no? È domenica sera. Vai, non ricordi. Previsioni per domani, pioggia. Piove, però al pomeriggio si dovrebbe un po' schiarire. Okay. Vediamo domenica, perché è la parte più interessante, secondo me. Neve! Domenica arriverà la neve, sia mattina che pomeriggio. Quanta? 2 metri. No, 1 centimetro. Sì, ma la cosa peggiore poi, cos'è? È la puccia che si forma. No, ma di qua la sera. Esco con voi? Ma no, no, che previsioni sono? Cosa arriva dalla Siberia? Il forte gelo, Burial si chiama. Con temperature neanche... studiato. Sì, infatti, con temperature che possono arrivare però anche... Però qua non c'è scritto nel tuo come meteo. Come no? Deborah, che meteo mi dai? Trebiglietto, okay. Che è anche il più grande sponsor. Che meteo farlocco, eh. Non comunque, c'è scritto. Questo qua parla di Manchester. Arriva questa gelata da record. 29 euro un volo per Manchester con EasyJet, quindi andiamo tutti. Là ci sarà il sole. Si spera. Vabbè, no. Quindi statevene attenti. Sì, soprattutto domenica sera che ci sarà un... Allora non usciamo? Beh, no. Meno 10-11 gradi sotto zero, Sotto zero. Sì. Vabbè. E lunedì saranno massime 0 gradi. Tony, allora, anni fa c'era meno 17, sì, che è vuoi? Vero, cioè... vero. Niente, vabbè. Però diciamo che un'impennata così in basso è critica la cosa, dai. Vabbè, sì, dai, ti metti una sciarpa in più, vai in giro come l'omino Michelin, su. Questo fine settimana non devi suonare, no? Ma io c'è la discoteca, c'è la casa. Allora, ma tu a casa fai anche qualche festa così? Le facevo fino a un annetto fa, poi. Poi basta. Mi distruggevano la casa, quindi ho lasciato perdere. Sì. Beh, c'è qualcuno che l'ha provata a fare anni e anni fa. Che si è risolto in pisciate sui muri, pesce morto. Non sveliamo questi altarini. L'animo punk di Domenico? No, di tutti in generale, cioè vedevi gente che proprio pazza, come di ogni... Le feste tipo quelle americane. Sì, io non so i genitori come l'abbiano conciata il giorno dopo. Non c'erano. vabbè, ma saranno tornati. Una settimana dopo sono tornati. Ha avuto il tempo di rimbiancare. Sì, infatti, cambiare abbiamo rimbiancato. Divano. Abbiamo rimbiancato. Come è stata brava mia figlia che ha cambiato anche il divano. Guarda, ci ha dato un divano nuovo. Il problema è che era colorate le mura, sono andate tutte bianche. Mamma mia. Vabbè, dettagli. Sono cose che sono successe quando andavo all'ITIS, voglio dire, miliardi di anni fa. Io direi che continuiamo con un po' di musica. Sì, e poi dopo è una della mia mezza fonica. Sì, dai, siamo arrivati quasi alla mezza, quindi sì. Il prossimo brano è dei Tre Lau. Non mi dire chi sono. Sono stati Tre Lau. Il brano è Fit Neve, che anche la settimana scorsa abbiamo ascoltato un brano con loro. Non so, non sono Nervo, quelle no, Neve. Ed è On My Own. Sono brano... stati Neve. Neve, sì, sono stati, sono stati. Technicolor rain, time is melting in my brain. Paint the roses black as night, swimming with the shadow lights. Never wanna know, never wanna let go. No, possiamo fare stasera. Intanto abbiamo ancora con noi i ragazzi Sara e Emanuele del Bioma Terra, che i sono biomi stati, terri che sono stati i nostri ospiti stasera. Non lo calcolate perché sai com'è. Tra l'altro stavamo facendo un discorso serio poco fa, quindi poi quando finiamo il discorso anche. E no, stavamo parlando di cose tecniche sui blog. E vogliamo sapere, sì, anche sì, noi no, adesso. No, ok, dai, va bene. È meglio WordPress o è meglio Aruba? Che dici, Tony? WordPress o Aruba? Per me la cipolla. Io Aruba. Non sono giapponese. Siamo in Italia, Aruba. Io sono giapponese, non so una cosa del genere. Prova a chiederlo ai nostri politici, vediamo cosa ti dicono. Che poi tra l'altro Aruba è anche un'isola tipo della Polinesia, se non erro. Sì, perché loro, la storia di Aruba è che ovviamente loro i primi server li avevano installati in quest'isola, non li avevano messi in Italia. per questioni, diciamo, di sgravi fiscali, robe varie, no? Adesso sono a Milano. Adesso sono a Milano, infatti si è bruciato, poi sono bruciati tutti i server lì a Milano. Hanno combinato un casino, sì, sì. È scoppiato un incendio e sono bruciati tutti i server di Aruba. Tutti passi? No, avevano dei backup, però ci hanno rimesso tipo una settimana per ripristinare tutto. Quindi pensateci bene, se volete passare dalla parte all'altra. Diciamo che, giusto per chiudere il discorso un po' informatico, questo è un po' da nerd, il WordPress è un blog, una piattaforma dove fare blog. Dimmi? Schiacciato. Perché? Perché press. Io me ne andrei. Lanciagli qualcosa per piacere, non so, tiragli una sedia. Quello alla fine stampa. Sì, press e stampa, non è schiacciato. Nella pressa. Vabbè, comunque WordPress è un sistema gratuito per fare blog, invece Aruba ti permette di avere un dominio a poco. Però tu dici a poco, c'è sempre il rovescio della medaglia, nel senso a poco, sì. Dimmi. Io ho una domanda, ma sì, perché sono qua con queste persone? No, vabbè, ma era il discorso che stavamo facendo. Andrea, di qualcosa, si parla di cose culturali, no? Infatti ogni volta tu ti dimentichi di mettere la sigla, quella sigla che tu ti dimentichi sempre, che dici sì, la scarico. Lo so, infatti quando stavate parlando tu rompi le palle a me, non sì, la mia sigla, quando invece vabbè. Comunque Andrea, se ti può interessare, quando vorrei fare un sito, un blog, chiedi pure, insomma, potrebbe essere una buona idea anche per promuovere l'attività come DJ, non è da escludere come cosa. Non so se ce l'avete come service un sito, no? Vista print, ok. Vista print è un altro sistema per fare un sito, diciamo che WordPress è più per chi fa un blog, no, come loro. Invece, poi ci sono vari sistemi. Però vabbè, dai, non facciamo questa puntata da... Mi sento un po' il... Come si chiama quello che fai? Ecco, infatti, l'Alberto Angela dei computer mi sento oggi. Io sono più da Mixcloud. Ecco, bravo. Esatto. Quindi... Io sono più da Letto Cloud. Letto Cloud. Ma ti devi rivolgere di là per queste cose. No, a dormire, non ti preoccupare. Perché in questo periodo poi mi stanno rompendo troppe volte il sonno e non va bene. Quindi. Va bene, andiamo, quindi salutiamo i biomi terri, come li abbiamo soprannominati. Grazie per essere stati con noi questa puntata. Quando volete tornare nelle prossime puntate siete ben accetti. Va bene. Bene. Ah, Tony, una cosa che ci siamo persi all'inizio. Settimana scorsa abbiamo fatto la puntata numero 30 e non abbiamo neanche festeggiato, porca miseria. Quindi adesso la 50 dovremo festeggiare. No, io vedo solamente sui podcast. Dopo ti spiego. Perché sul podcast di iTunes era la puntata numero 30, che contiene tutte da quando abbiamo iniziato l'anno scorso. Infatti tra poco facciamo anche un anno, quindi sì, dovremmo fare almeno una candelina, dai. Ma vuoi fare una puntata speciale? Ci pensiamo fuori onda, dai, dopo. Sì, vabbè. Va bene, portiamo, dai, le brasiliane. Però bene, minorenni non ce ne devono essere, non me ne vogliate, però. Sarà over 18. Va bene, quindi salutiamo Sara e Emanuele, che purtroppo dovrà tornare in bicicletta. Oggi non è proprio la giornata... L'ambientalista, però ce la Oggi non è la giornata migliore, mi spiace. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano ed è The Weeknd, visto che ci siamo, dai, ormai è venerdì sera, esatto. The Weeknd, Fit Daft Punk. Bella questa. Il brano è Starboy. Conosci? Sì, ma... Oggi te l'ho detto, siamo mainstream, quindi... Mamma mia, veramente, sembra di essere riscolati. Cleaner than your church shoes, belly point two just to hurt you. Kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me. Every day a nigga try to end me. Pull off in the roadster. That's a far cry. I come alive in the fall time. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, song of a new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ever into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. I switch on my core if I kill any pain. Nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Che te ridi, che te ridi? No, niente, Tony mi voleva togliere Andrea. No, sicuramente. Va bene, va bene. Cos'è la Starboy? Starboy, il primo singolo dell'ultimo album di Weeknd. Però. Canadese? No, inglese mi sembra, canadese, non mi ricordo. Non lo so. Comunque, diciamo, la versione, diciamo, come puoi dire, la base elettrica, la base strumentale è fatta da Daft Punk. Dopo Bang. Quindi non è, cioè, non è che proprio... Ti piace pizza. Daft Punk, Andrea? Pizza, fica, fichi. Pizza pie. Tra l'altro è arrivata ai microfoni anche la nostra Deborah. Perché sì. Non ci arrivava. Questa Tony, merita proprio, guarda. Te l'ho detto, non è che c'è tanta distanza, purtroppo, non siete purtroppo. Tanto lontani, non siamo tanto lontani. Tra tutti qua, forse Andrea... Sì, beh, lui ci batte. Cioè, ma lui ha 15 anni, sì, è quello sì, il problema. Infatti. È quello il discorso. Tu Andrea fai ancora sport? So che tu fai karate, sei appassionato, no, di meno. Sport. Tennis, no, basta. Sei iscritto in palestra, ma... Fai pesistica. Vado una volta ogni tanto. Diciamo. Preferisce la musica. Beh, fa bene, non è mica una brutta cosa. Alla fine, comunque, guarda che a star lì a mixare, comunque, cioè, se ci si impegna in una serata, cioè... Vale 100 volte la palestra. Io lo invidio perché fai squat. Io lo invidio perché suo papà comunque gli ha passato una bella passione e gli dà anche i mezzi per farlo. Ma anche il mestiere che fa il padre, il rapping. Vabbè, è quello che metti le pellicole. Ah, bello, bello, sì, bello. Sì, cioè, anche lì però... può trovare un altro sbocco. Vedete, devo essere un ragazzo fortunato. Non con lo sfrutta, zio, sfrutta. Però. Non no, con lo no, zio. Ragazzi. Con lo sfrutta, zio, no. Sfrutta. In casa a parte. Con lo zio ha una casa a parte. senso della parola. No, comunque è passata ormai più la mezz'ora, sì, e dobbiamo presentare il prossimo brano che annuncia Tony, vai. Ah, la mezza Tony. Non faccio nessuna presentazione, dico solo il nome. Vabbè, diciamo che, allora, che programma è? Mezza tonica dentro il programma Wolf Trips. Dentro il bicchiere. Sembra una... come si chiama? No, è Matrioska, un programma Matrioska. Vabbè, la grandezza è quella di cui... Deborah, dì qualcosa. Mezza qualcosa. E... praticamente ho scelto questa sera come secondo pezzo, lui si chiama Cascade, che ha collaborato con Deadmau5, che prima che facesse trap. È qua che ti volevo, no, è qua io, che ti volevo. Io mi incazzo stavolta, è così che ogni volta che faccio il serio, lei con quell'altra sua socia fanno le... No, io non ho fatto nessuna smart. Io quello che hai detto non lo conosco, io conosco solo il Cascade. Sì, ecco la cosa. Comunque, è qua che ti volevo. È Deadmau5, Deadmau5, Deadmau5. Io so che si dice Deadmau5. Sì, è giusto Deadmau5. Ti piace Deadmau5, sì, Andrea? Sì. Non sai niente, non di so chi sia. È quello che ha il casco a forma di topo. Sei come Daft Punk. E adesso ti fa vedere lui. Ecco, sì, sì, io faccio l'aiuto dalla regia. Ecco. Ah, ok, sì. Sì. Okay, lui fa trap adesso. Mai però. Visto. Capito. È canadese e nel 2009 hanno fatto questa collaborazione con questo basso reso famoso da Deadmau5. Ivan basso, lanciagli qualcosa. La sigaretta ancora non si è andata a fumare. No, infatti è per quello. Ma secondo te, giusto per sì, poi dopo chiudiamo, ma cioè Deadmau5 fa le trap per i topi? Cioè, non ho capito questa cosa. Spiegami un attimo. Perché ti ho detto che fa trap? Beh, sì, Tony, sono sì, marito e moglie. Cioè, così è vero. Va bene, potrei dai, dire lo stesso di voi, eh. Occhio! La serata che ricordi. Comunque il brano è molto conosciuto, molto, ce l'abbiamo già in sottofondo. Andiamo a ascoltare quindi Cascade con Deadmau5, I Remember. You don't have to move on, let go. Wolf Trips. Dai, ormai siamo alle battute finali. Sì, sì, proprio ta ta ta. Abbiamo da Andrea da solo, già confermato il nuovo speaker. Beh, quando vuoi tornare alla sì, tua sì, Andrea, quando vuoi sei sempre il benvenutissimo. Bene, classifica molto ridotta della Wolf Trips Chart. Sì, sì, sì. Dobbiamo fare 10 pezzi, no, ma va, 10 pezzi li facciamo magari in qualche occasione speciale. A pillole, una pilloletta per volta. E quindi niente, iniziamo dalla posizione 5, poi in realtà salteremo poi ad altre posizioni. Patawawa è un nome di un gruppo, veramente. Sì, no, e tra l'altro, secondo me, visto che comunque è una classifica di future hits, cioè canzoni che poi faranno successo, ho l'impressione che ne sentiremo parlare molto di loro, perché sto leggendo un po' di articoli, a parte noi che ormai ve li ho propinati da mesi, sto leggendo un po' di articoli di riviste per DJ o comunque per artisti esteri, diciamo Londra, così, e vedo che vengono sempre più spesso, hanno sempre diciamo uno spazio dedicato a loro, quindi... La Patawawa tira molto, diciamo. Vabbè, dai, andiamo ad ascoltare il brano che è di Patawawa con Patagonia. Ci voleva. Erano i Patawawa, te le sei perse. I nostri amici. Sì, sì, ormai che ormai stanno uscendo anche dalla classifica. Piano piano. Sì, sì, no, beh, ci vuole un po' di svecchiamento, no? Ma ascolta, ma l'hanno accolto poi il mio invito che gli ho fatto? Non lo so. Io gli posterei il pezzo dove chiedevo. può essere. Sai che noi siamo anche molto international. Loro. E quindi in inglese li abbiamo invitati qua per un'intervista. Già che l'avete detto in inglese. Io ho scritto I don't search Nulla. Beh, ma Andrea anche lui. Sei calabrese o siciliano, Andrea? Luca? Calabrese. A posto siamo. Come stiamo parlando di Tomorrowland? Intanto che chiudiamo, siamo in chiusura, però stavamo parlando prima di Tomorrowland. Mi avete detto che c'è anche in Italia, quindi quest'anno. Sì, quest'anno si sono inventati di fare anche una data italiana, cioè contemporanea dal Belgio, Quindi cos'è, un video streaming? Sì, alla fine, è la data. Cioè i DJ set non immagino cosa metteranno. Cioè adesso mi dispiace per Andrea, ma non so se butteranno dentro Gigi D'Agostino, credo. Perché no, non penso. Sentito che il primo DJ come DJ Dado, ti dico già tutto. Cioè, non poi c'è DJ Knorr. Ok. Dopo questa storia. Vabbè, ma notizie se ne avranno più avanti, perché la notizia è uscita sta settimana. I biglietti li venderanno la prossima. Costeranno 100, boh. Non allora, so. Mi serve vedere un mega schermo? Sì, fai prima a comprarti la TV mega schermo. Beh, ma noi comunque eravamo anche andati a sentirlo Gigi D'Agostino. E sì, adesso dovrebbe, sì, dovrebbe essere ancora qua in zona. Sì, alla palla Yamamai. Palla Yamamai. Te non vai, Andrea? Vero. Vieni con noi? Andiamo. Andiamo. Noi eravamo andati a sentirlo, pensa, gratuitamente in un oratorio. No, in un sì, oratorio, vero, nell'oratorio a Busto, sì, pensa vero. A te, pensa quanti a anni fa? Ma un bel po'. Era ancora povero. No. Si sei... moriva. Era dopo il 2009, sicuro. No, si moriva di gente, sì, sì. Era strapieno, una cosa. Era strapieno, allucinante. Infatti io che soffro tanto i posti. No, non è claustrofobia, è proprio il calore. La gente, cioè troppa gente mi mette... C'è la gente, no? La gente che dà fastidio, la gente. No? Non respiro, mi tolgono l'aria. E quindi... Però è stato bello comunque, perché noi poi siamo usciti all'aria aperta. Però è stato bello, veramente, una bella esperienza. Quante l'hai vista, Andrea, Gigi D'Agostino? Una, due? Due. Una al Fellini e l'altra alle Rotonde. Ah, le Rotonde. Iniziamo su Varese. Allora tre. Quella volta lì mi ricordo solo una cosa, che mi sembrava di essere... Quale? Lì, della volta che l'abbiamo vista all'oratorio. Mi ricordo che sembrava di essere su una nave, perché lui era vestito tipo da capitano. Sì, lui ogni tanto si veste comandante, non so comandante. Come quindi ma sembrava di essere su una costa crociere. Volevo chiedere una non cosa. Non c'era poi il mare. Dimmi. Ma il Globo, la discoteca, c'è ancora? Ah, non guardare mai. Adesso lui lo dici, il Globo. E dov'è? Mi sembra verso Vercelli, se non erro. Io non l'ho mai sentita. Cioè, forse sì, ma non mi ricordo. Ma abbiamo un potente strumento che si è chiamato internet. Vai. Why not cercare? Adesso lo cerchiamo. Nel frattempo, va bene. Nel frattempo, sì. Allora, sono già le 10, però vediamo se riusciamo a chiudere le ultime due pezzi della serata, veloce. Allora, il brano, questo qua di Kendrick Lamar, DNA, di Young Boy Remix, è la posizione numero 2. Attenzione, quindi potrebbe forte diventare... ascesa. Sì, forte ascesa, minchia, sei troppo avanti. Quindi andiamo ad ascoltarci Kendrick Lamar, che tra l'altro sta facendo molto successo con altri brani, ancora il Globo. E quindi sì, c'è ancora. Lei ride per il salotto, che qualche sera ci andremo. Mi porterà in quel del salotto. Sì. Ma prima devo trovare qualcosa di ferro. Ma va. Perché? Lascia stare. Ah, perché hai paura che Tony ti baci? No. Era per quello, non era per quello, era per qualcos'altro. Vabbè, non rimaniamo sul non volgare, dai, che sennò dopo, non dirlo. Dopo devo censurare la puntata su iTunes, mi devo mettere explicit version. Ecco. Only. Evitiamo, dai. Explicit only, sì, 18 sì. Più. Comunque sì, diciamo che il globo c'è ancora, una delle, tra l'altro vedendo le foto sembra proprio una discoteca di quelle bestiali, cioè, sì, vero. Io ci sono stata anni fa e è molto bello. Le sale veramente erano divise bene. Ogni sala aveva la sua musica. Quante e ci sale? Stava un sacco di gente. Quante sale? Ce n'erano aperte 3 quando sono andata io. Queste sono le discoteche da Andrea, cioè per quella musica che suona lui anni 80-90, quelle immense discoteche che c'erano una volta, che la domenica pomeriggio anche comunque durante il weekend sono sempre piene. Adesso cavolo, è difficile riempire un luogo del genere. Beh, celebrità, discoteche così magari ancora sì. Potrebbe essere. Anche il Mediterraneo? Mediterraneo ancora è aperto. Sì. Sì, anche la domenica pomeriggio è aperto. Vai pure. Io non ci vengo, io te lo dico che non ci vengo. L'ultima volta che l'abbiamo trascinato io e la mia migliore amica non è stato molto contento. Cioè, a 16 anni si può entrare adesso in discoteca. Sì, però... E ancora non ce li ha, borraccio, voglio non arrivare. No, ma sei l'unico DJ che non entrerebbe in discoteca. Ma hanno anche 14 anni in realtà. Sì? Sì. Infatti è pieno di ragazzi. Ma però... io... Scusami, io quando c'ero andata io... Avevi 12 anni? Qualche anno fa non c'erano... No, diciamo che l'età media era sui 60-70. Dove andavi? No, il Mediterraneo. Anche perché era trasformata in una balera. È sempre stata. Hanno messo le sale che hanno messo erano latino e liscio. Beh, penso che facciano anche serate diverse, no? Al momento no. Io ci facevo il DJ anni fa. Abbiamo vissuto il periodo dell'hardcore, ecco. Quindi sì, facevano serate diverse. Adesso ultimamente diciamo che la moda è un po' cambiata. Che noi tra l'altro eravamo andati con l'idea del Mediterraneo. Sì, infatti, di divertirci quella... invece. E invece ci siamo trovati la balera praticamente. Gli settantenni, ottantenni che ti chiedevano di ballare magari un liscio, un latinoamericano e tu rimanevi. Dai, concludiamo un po' la serata in bellezza, non con questi ricordi tristi. Se Andrea non torna più. Andiamo ad ascoltare il brano che è alla posizione numero 1 della classifica, che è nuovo numero 1 tra l'altro, è Charlie Puth con How Long, però è Jerry Falk remix. Eh sì, perché questa canzone è molto suonata dappertutto. È molto molto suonata, infatti chiudiamo anche con la questione della mainstream di oggi, va? Anche con qua, però il remix. While you creep around on me, while you creep around on me. While you creep around on me, while you creep around on me, while you creep around on me, how long has been going on? You've been creeping around on me, while you're calling me, baby, how long has this been going on? You've been acting so shady, I've been feeling it lately, babe. I'll admit, I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but I promise there were no feelings involved. No. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies, baby, I just gotta know how. But you'll never see that you're the only one I wanna love. She said, but tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies. Viaggi del lupo. Allora, puntata al termine. Che c'è? Puntata al termine. Siamo arrivati ai dulcis in fondo. Dulcis. È sì. Contento. No, un po' mi dispiace perché comunque si è creata una bella serata. Sì, sì, eh? Infatti. Cioè. Andrea, volevo chiederti una cosa. Tu hai un outfit particolare per le tue serate? Cazzo, devo mettere no. La sigla di Ma come ti vesti? Cioè. No, perché ad esempio tu metti la maglietta con il camicia. Cervello, con le cuffie. Camicia. Lui mette la camicia un po'. È Armin Van Buren. Armin io anch'io sono andato con la camicia per miliardi di anni e poi mi sono stufato, sinceramente. Fa freddo. No, boh, perché inizia... Quando invecchierai diventerai più giovane. I DJ no. Sì, funziona così secondo me. Sono stato anche un sacco di tempo con la... Sì, non ho mai visto, no? Camicia, gile, sempre. Beh, sempre. Ricordiamo... No, perché sennò non mi sarei mai avvicinata. Esagerata. C'ho un paio d'occhi azzurri che... Oh. occhio no, Michele. Ah, che pappa. No. Che pappa? Che dov'è? Vabbè. Quindi niente, camicia semplicissima. Non... Bene. Volevo ricordare ai nostri ascoltatori dove possono vedere, cioè sentire quello che fai e dove possono trovare eventi futuri per poter partecipare alle tue serate. Allora, su Facebook, ma anche su YouTube. Mm-hmm. Su Facebook c'è la mia pagina Andrew DJ, oppure quella di mio padre, del mio amico, Magic Service e DBL Service. Sì. Okay. E DBL Service. DBL. DBL, ok. Le iniziali del paparino. Sì? Eh sì, della buona Luca. Ah, abbiamo sì. Scoperto il nome e cognome. È diventato rosso. In questo momento sta sprofondando nella sedia. Saluti. Chi sa- sì. Vuoi salutare? Ma salutare... Saluto quelli che mi seguono. Amici e familiari. Non è che la ragazza saluta. Vabbè, dai, non esageriamo. Vabbè, ma cosa c'è? Non c'è? Ci sta ascoltando? Pensi di sì, pensi di no. Boh. Può essere, magari è tardi, eh. Qua sembra che qui alle 10 siamo già molto oltre i nostri orari di sonno. Sì. Beh, saluto pure lei che se sta ascoltando si offende, vabbè. No, poi so cazzi, vedi, io lo dico. Poi dopo ti fa un culo, vedi avanti, te. Avanti con le paroline, Ale, qui taglia, taglia. No, è la verità, no, è la verità. E qua è buona la prima. È buona la prima. Sì, vabbè, allora. YouTube su che canale ti possiamo seguire? Sempre Andrew DJ, ok. Niente. Io direi che salutiamo tutti. La puntata è giunta purtroppo al